Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Juventus, and of course it is Juventus. Sevilla FC. Sevilla FC, five-time winners of the Europa League and three times in a row, so two records. Olympique Lyonnais. Yeah, you know. And the first team drawn by Rude is Olympique Lyonnais. Dinamo. Dinamo Zagreb. Sappiamo il ruolo che dobbiamo recitare, che è quello di qualificarci, indipendentemente dagli avversari. Oggi è un sorteggio che rappresenta appunto una posizione sulla carta, poi il campo può esprimere un verdetto diverso. Noi abbiamo un obbligo, quello appunto di vincerlo, o quantomeno di qualificarci, contro avversari che sì, possono essere inferiori, però in realtà non dimentichiamoci che Siviglia ha vinto per 3 anni consecutivamente l'Europa League, a Lione ci abbiamo giocato nel 13-14, mi sembra nell'edizione 13-14 abbiamo vinto, la Dinamo Zagabria è una squadra che ha sempre delle giovani promesse, noi abbiamo preso Piazza quest'anno. Tornando al discorso della Champions, il Siviglia è l'unica squadra che in 40 anni, negli ultimi 40 anni ha vinto per 3 volte lo stesso trofeo. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, dietro al vetro, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Beh, apparentemente è andata bene, così per sentimento comune è andata bene alla Juventus, è andata bene al Napoli, ieri nel sorteggio di Champions League. È andata bene anche agli italiani di Europa League. Poi fra qualche istante vi leggo i 4 gironi di Inter, Fiorentina, Roma e Sassuolo. 800 24 00 24, vi aspetto fino alle 15 tutti convocati per raccogliere le vostre sensazioni sul sorteggio di ieri sera per Juventus e Napoli e sul sorteggio anche di Europa League che adesso vi leggerò per Inter, Fiorentina, Roma e Sassuolo. Siamo qui, 800 24 00 24 oppure via sms e whatsapp 349 238 6666. Saluto subito Alessandro De Calò, collega della Gazzetta dello Sport. Ciao Alessandro, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti. Ovviamente spazio aperto anche in quest'ora dedicata allo sport per le finestre informative su quanto accade nelle zone del terremoto, quindi terremo aperta comunque la porta a qualunque aggiornamento possa arrivare, così come sta capitando da 3 giorni in tutta la programmazione di Radio 24. Alessandro, se permetti un minuto, diamo prima il girone di Europa League di Inter, Fiorentina, Roma e Sassuolo. Allora partiamo dall'Inter, che è stata sorteggiata nel girone K, era testa di serie ed è andata con lo Sparta Praga, il Southampton e poi gli israeliani dell'Apoel Beersheva. La Fiorentina, girone J, anch'essa testa di serie con il PAOK Salonico, incontrato già tra l'altro 2 anni fa proprio in Europa League, poi con lo Slovan Liberec della Repubblica Ceca e con il Karabakh che viene dall'Azerbaigian e che ha già conosciuto 2 anni fa l'Inter. La Roma, gruppo E, Roma che partiva dalla seconda fascia e dunque non era testa di serie, Victoria Pilsen, Repubblica Ceca, la peggiore ranking alla mano tra le 12 teste di serie, gli austriaci dell'Austria-Vienna e poi i romeni dell'Astra Giurgiu, che sono la squadra che per 2 anni di fila, compreso questo, ha eliminato il West Ham nel preliminare di Europa League. E per chiudere, lo straordinario Sassuolo, tra qualche minuto avremo Eusebio Di Francesco ai nostri microfoni, partiva dalla quarta fascia, andrà a Bilbao, al San Mamés, contro l'Athletic Bilbao e poi ha pescato anche il Genk, rappresentante belga, e il Rapid Vienna, austriaco. Mi sembra complessivamente, Alessandro, non sia andata male. No, è andata molto bene. Direi che è un'Europa molto dolce per le italiane, però come sempre c'è un'altra faccia della medaglia. E noi sappiamo che le scuole italiane hanno una grande attitudine a competere, diciamo, e per competere hanno bisogno di adrenalina alta, hanno bisogno di avere un avversario da temere. Nel momento in cui hanno davanti un avversario che anche inconsciamente considerano inferiore, e poi fanno spesso fatica anche perché, diciamo così, la tradizione del calcio italiano non è quella di porre il gioco, ma è sempre quella di rispondere un po' al gioco degli altri. In questo senso direi che il Sassuolo è una felice eccezione, e nel suo piccolo, come bonsai, mi ricorda un po' la Juve di Allegri, anche se il progetto tattico, diciamo così, di Francesco è un po' meno italianista, è un po' più proiettato nel futuro ed è molto vicino al calcio europeo, e io mi aspetto molto dal Sassuolo. Io sono molto curioso di vedere il Sassuolo alla prova dell'Europa League e anche della gestione del doppio impegno. Sassuolo che intanto oggi ha ufficializzato Ragusa dal Cesena, un altro ragazzo italiano molto interessante che va ad aggiungersi a una squadra che fa della linea italiana uno dei suoi punti di forza. In generale direi un sorriso per Juve e Napoli e per le rispettive ambizioni, che sono ovviamente diverse in partenza di questa Champions League, fatto salvo che poi dovremo verificare tutto, Alessandro, alla prova del campo. E io voglio anche dire una cosa, siccome la Juve parte per vincerla questa Champions, abbiamo sentito prima Marotta, non ci sono obblighi, però insomma c'è una squadra costruita per arrivare fino in fondo. Secondo me il sorteggio di ieri non è stato straordinario, perché nei gruppi di Champions ha creato due gruppi più scarsi, due gruppi quasi da Europa League, e questo in realtà renderà un po' più complessa la gestione, anche dovesse la Juventus vincere il suo girone, per i sorteggi del primo turno della seconda fase. Io lo so che stiamo un po' anticipando, ma la Champions è la competizione dei dettagli, Alessandro, e questo credo sia un dettaglio importante. No, ma non c'è dubbio, però diciamo sono due cose. La prima è che la vera Champions comincia in febbraio quando si fa l'eliminazione diretta. Per molto tempo noi italiani abbiamo sottovalutato il fatto di arrivare primi nel girone, pensavamo che tanto primo, secondo, l'importante è qualificarsi. In realtà nelle ultime 10 edizioni soltanto una squadra è riuscita a vincere la Champions classificando seconda nel girone, ed è stata l'Inter di Mourinho, e sappiamo insomma in che modo è arrivata alla vittoria della Champions, sempre un po' con l'acqua alla gola. Un trionfo indimenticabile, però un po' sofferto, ecco. E viceversa, per imporsi, per arrivare fino in fondo, beh, insomma, bisogna avere cioè quello che Hemingway chiamava la parte nascosta dell'iceberg, no? Che si muove e che ti garantisce, diciamo così, la persistenza. Cioè Guardiola ha giocato sette volte, ha diretto sette volte la squadra in Champions, e come minimo lui è sempre arrivato in semifinale. Il Bayern sta arrivando nelle ultime tre edizioni in semifinale. Cioè le squadre che arrivano in fondo sono quelle. C'è un'oligarchia data, diciamo così, non soltanto dai soldi, non soltanto dalla qualità dei giocatori, ma dal fatto di saperci essere, da saper giocare queste partite, esattamente l'antitesi di quello che ha fatto la Roma l'altro giorno, anche, insomma, per intenderci. E questo è un fattore che per esempio Allegri nella Juve ha scatenato, aggiungendo un valore a questa cosa qui. Allegri è uno che anche con il Milan è sempre riuscito a superare la prima fase, la fase a gironi. Con Conte non era stato altrettanto. Sì, Juventus, che io credo tu condividi, ha l'obbligo di pensare di esserci a maggio. Ma certamente la Juve, diciamo così, come minimo deve arrivare in semifinale. Questo è il suo target, questo è il suo obiettivo, ed è giusto che continui a pensarsi così. Se pensiamo soltanto qualche anno fa, insomma, la Juve sembrava perduta per quella che era la sua dimensione, e noi pensavamo ed eravamo abituati a vedere come dimensione, sia nel campionato italiano sia nel gap che aveva nei confronti dell'Europa. Mi pare che questi ultimi anni testimoniano come una oculata gestione economica e una gestione tecnica da fuori classe assoluti, perché con delle scelte di mercato, di giocatori, di valorizzazione di alcuni giocatori, di alcune piccole strategie che permettono alla squadra di avere una prospettiva arricchendosi anziché impoverendosi economicamente, fanno pensare che il percorso della Juve sia questo. E comunque non è un'ultima spiaggia, la Juve sicuramente deve fare dei passi avanti, ma potrà farli anche, diciamo, fra due anni, fra tre anni. L'importante è che sia lì, che arrivi fra le prime quattro, che arrivi a essere una delle squadre che se la giocano. Noi sappiamo che nessuno ha mai vinto, da quando esiste questa edizione della Champions League, due volte di fila. Sì, il che dovrebbe almeno statisticamente mettere fuori il Real Madrid, almeno statisticamente. Tendiamo a escluderlo, sì. E quindi nessuno, questa è, se vuoi, anche la magia, no, di questa Coppa, che non è che vince sempre uno, come succede appunto in Italia con la Juve, in Francia con il Paris Saint-Germain o in Germania con il Bayern. Sappiamo che c'è un'alternanza, però non è un'alternanza assoluta, è un'alternanza, diciamo, di una certa oligarchia. In questa oligarchia la Juve è giusto che ci sia, mi pare. Ti sei fatto un'idea di quanto valga in proiezione Europa il Napoli? Il girone mi sembra consenta di pensare a uno sbarco nella seconda fase. Poi però c'è anche l'incognita di capire, ad esempio, il valore di Sarri come tecnico a livello di competizione europea. Ah, mi pare che, se non altro, la prima fase dell'Europa League dell'anno scorso sia stato un grande riscontro positivo di come Sarri affronta il calcio europeo. E d'altra parte direi che Sarri è molto più dentro al calcio europeo che non tanti altri tecnici italiani che sono ancora ancorati, diciamo, a una visione un po' troppo, direi, difensivista e italianista. Sì, dovrà forse imparare la gestione, perché poi un anno fa, a febbraio, si schiantò sul turnover. Non c'è dubbio, il limite grosso è quello lì, il limite grosso è la gestione del turnover, diciamo, ha due limiti in questo momento. Uno è la gestione del turnover, ma se vogliamo l'anno scorso la gestione del turnover era limitata dal fatto di non avere una rosa all'altezza, diciamo, con delle riserve all'altezza dei titolari. Viceversa, quest'anno la grossa incognita, naturalmente, al momento è la sostituzione di Higuain. Non ci sarà e non potrà esserci un altro Higuain che sostituisce nel ruolo di centravanti l'argentino, però potrebbe esserci un arricchimento di tutta la squadra che permetta poi, se è vero poi che arriverà Kalinic, a un giocatore come Kalinic, di assicurare lo stesso numero di gol, lo stesso peso, la stessa capacità, lo stesso sbocco davanti alla porta avversaria, anche magari non sul piano individuale, ma garantendo che tutto l'attacco vada a segno. Sì, non è detto necessariamente che Napoli numericamente, come potenzialità di gol, si sia indebolito perdendo Higuain. So che è un paradosso, però anche i numeri di 3 anni di Higuain a Napoli dicono questo. Alessandro, c'è il traffico, ti saluto, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Grazie ad Alessandro De Calò, Gazzetta dello Sport. C'è il traffico, state scrivendo in tanti sul Sassuolo, che ieri ha fatto la storia, l'ha fatta per sé, perché per la prima volta si è qualificata ai gironi dell'Europa League, ed è una prima volta storica, e l'ha fatta anche perché c'erano 10 italiani in campo su 11. E anche questo è un tema stuzzicante. 800 24 00 24, se volete dirci la vostra, anche sui sorteggi. Cosa ne pensate? Secondo me il sorteggio per la Juve, che vuole vincere la Champions, non è stato un sorteggio straordinario, però siamo qui. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24 oppure SMS e WhatsApp 349 238 6666. C'è chi scrive, c'è chi si lamenta per gironi facili. I gironi, a parte che non sono facili, oggi l'ha ricordato Allegri, il Siviglia ha vinto le ultime 3 Europa League consecutive, non è che gliele hanno consegnate a casa per sorteggio, quindi è una squadra comunque temibile, e la Juve ne sa qualcosa per come è andata l'anno scorso. Il tema però è che, se poi si allarga la visuale a tutto lo sviluppo potenziale della Champions League, è un sorteggio che complessivamente potrebbe aver creato un'urna per gli ottavi di finale complicata anche per chi vince il proprio girone. Poi magari lo spieghiamo meglio. C'è Eusebio Di Francesco già collegato, che ringrazio. C'è però prima un aggiornamento sulle vicende del terremoto, Marta Cagnola. Sì, Giovanni, allora, come avete sentito anche nel nostro lungo speciale che ha preceduto questa puntata di Tutti Convocati, ha parlato il sindaco di Amatrice, che ha fatto il punto della situazione. Nella cittadina mancano ancora persone all'appello, ha detto il primo cittadino, almeno 15. Poi la situazione della raggiungibilità del centro, perché il ponte a tre occhi, è così denominato, è stato chiuso, ma c'è grande preoccupazione per un altro ponte, che è il Ponte Rosa, e il sindaco ha detto è una situazione di rischio di crollo non crollo. Se ci fossero problemi ci troveremmo fuori da ogni collegamento. E poi una notazione che riguarda anche il mondo dello sport, Giovanni. 200.000 euro per i terremotati è una donazione che ha annunciato Zhang Jingdong, che è il nuovo proprietario dell'Inter. Ha detto: il Suning ha acquistato l'Inter anche perché siamo stati affascinati da un bellissimo paese come l'Italia. Siamo molto addolorati, vorremmo inviare le nostre condoglianze e ci attiveremo per far sentire la nostra vicinanza attraverso una donazione di 200.000 euro. Questi dunque gli ultimi aggiornamenti che riguardano anche il mondo del calcio, che ieri ha celebrato l'impresa dell'ultima grande seduta al tavolo del calcio italiano. Va bene, lancio per Berardi che è in posizione regolare, arriva Biondini al centro a seguire l'azione, Berardi finta, mette a sedere Pibel e sul primo palo batte Kariman e porta in vantaggio e meritatamente il Sassuolo. Ancora lui, sempre lui, Berardi, che firma un altro gol in uno stadio storico. E finisce qui, finisce 1-1 al Rajko Mitic al Maracanã di Belgrado. Finisce con i sorrisi e gli abbracci dei giocatori del Sassuolo, perché adesso, dopo averlo tanto sognato, è tutto vero, l'Europa apre le porte al Sassuolo. Ah sì, ci tenevamo a fare questa impresa, venivamo da un ottimo risultato fatto all'andata e adesso abbiamo un'altra partita importante domenica e siamo contenti di questo risultato raggiunto e adesso ci prepariamo per la prossima. No, sicuramente abbiamo raggiunto un obiettivo importante e adesso andiamo ai gironi e ce la giocheremo come abbiamo fatto questi playoff. Se se la giocano come hanno fatto in questi playoff, ci sarà un bel vedere. Eusebio Di Francesco, buon pomeriggio, ciao, grazie. Buon pomeriggio a voi. Come ci si sveglia il giorno dopo aver comunque compiuto un'impresa storica? Beh, più che svegliato abbiamo dormito poco, per quello che ha fatto quasi tutta la nottata. Io devo dire che forse non ci rendiamo ancora conto di quello che abbiamo fatto in questi anni, della crescita costante che ha avuto questa squadra e dell'obiettivo che ci eravamo prefissati e abbiamo raggiunto con grande forza, con grande qualità, per arrivare alla fase dei gironi. 10 anni fa, oggi, il Sassuolo era appena stato promosso per la prima volta, tra l'altro, nella sua storia, dalla Serie C2 alla Serie C1. Questo per dare anche una dimensione all'impresa, anche se io penso, Eusebio, che continuare a parlare di miracolo, di favola, sia quasi offensivo. Qui c'è lavoro, c'è programmazione, c'è tanto altro. No, non è offensivo, ma sicuramente fa piacere il fatto che siamo partiti dal basso e dei numeri rispetto a grandi altre squadre dal punto di vista anche delle scelte di giocatori, in particolare i giovani italiani, ha portato a grandi frutti. Per quello che chiamatela come volete, però dietro c'è sempre quello che ha detto lei: il lavoro, abnegazione, sacrificio, senza di quello non si ottiene niente. Ti giro un messaggio che ha scritto un amico, Marco, da Verona. Ricorda che il primo miracolo a Belgrado contro la Stella Rossa risale all'83, il Verona di Bagnoli. Secondo me è affascinante che il secondo l'abbia fatto il Sassuolo. Stiamo parlando di realtà di provincia. E infatti il Verona è un po' storico di quegli anni, per quello è un bellissimo paragone ed è bello che una società sicuramente più piccola, anche come città, come tifoseria, rispetto al Verona, abbia potuto avere questa grande soddisfazione. Peccato anche un po' per ieri, perché al di là della qualificazione del pareggio, noi avremmo sicuramente meritato di portare a casa la vittoria, mi sarebbe piaciuto, dai, vincere anche a Belgrado. Beh, la siete tenuta per Bilbao, immagino tu abbia visto il sorteggio Athletic Bilbao, Genk e Rapid Vienna. Che impressione ti fa? Ah, veramente l'ho vissuta con grande serenità perché la stavo guardando e devo dire che sono contento di andare in bei posti, dai. Al di là di quello, andremo a Vienna, a Bilbao, a Genk, per quello ce la giocheremo alla grande, sono convinto, sapendo che il Bilbao è una società più delle altre due che è abituata a fare questa competizione ed è spesso arrivata anche alle fasi finali. Per il resto sono convinto che ce la potremo giocare. Ma c'è un po' di emozione all'idea di entrare in quello stadio lì, il San Mamés. C'è entrato un paio di stagioni fa il Toro e ha vinto ed è rimasta comunque un'impresa giustamente nella storia. Io ci ho giocato con la Roma, è sicuramente uno stadio che è particolare, dove c'è una grandissima tifoseria, ma anche ieri ho visto una grande tifoseria a Belgrado, perché noi ci dobbiamo concentrare solo su noi stessi, sapendo che andremo ad affrontare qualcosa di bello e di storico. Io più che emozione c'ho già l'adrenalina, devo dire la verità, per poter andare a competere con queste squadre, anche se alle porte sapete benissimo che la testa sta al Pescara che affronteremo domenica. Guarda, Riccardo scrive quanto pesa non poter giocare nella propria città, anche la Coppa, anche cose importanti ed emozionanti come una sfida con l'Athletic Bilbao. Beh, io credo insomma Reggio Emilia è di fatto la casa del Sassuolo. Sì, è la casa del Sassuolo, però capisco anche il tifoso sassolese, capisco un po' tutte queste situazioni, ma era quasi impossibile, no? Per tanti motivi di ordine pubblico e anche per le strutture che c'erano da solo poter competere a certi livelli. In questo momento abbiamo il Mapei Stadium, penso che sia un gioiellino di proprietà, anche se in un'altra città, però è da prendere come esempio per come la società l'ha strutturato e lo sta gestendo. Avevi in mente tutto questo a maggio, quando a un certo punto hai deciso insomma di non dar corso a trattative per altre panchine, soprattutto quella del Milan, e hai fatto riferimento a chiarezza di obiettivi, chiarezza di rapporti, a risorse adeguate per fare un progetto, per proseguirlo? Io più che al di là delle risorse è la programmazione che fa la differenza. E la chiarezza delle idee, il fatto che si vuole arrivare a determinati obiettivi passando con i giovani, con determinate caratteristiche sui giocatori che andiamo a scegliere. Noi magari a volte si vuole ambire a prendere qualche giocatore più importante e non ci si riesce, anche perché il blasone, magari anche l'aspetto economico non ce lo possiamo permettere, però sono convinto che stiamo prendendo dei giovani molto interessanti e stiamo lavorando sui giovani che vengono anche dalla B, da categorie inferiori, in maniera qualitativa, grazie anche al lavoro sia dello staff tecnico ma anche del gruppo storico, che permette a tutti di entrare in sintonia subito con l'ambiente. Sì, Ventura farà bene a venire presto a trovarvi, visto che lo abbiamo detto anche prima e lo scrivono in tanti. Anche da casa è uno degli aspetti più apprezzati. Il Sassuolo è una grande, perché oggi è una grande del nostro calcio, ed è una grande che ha un progetto tutto italiano o quasi. Per me non siamo grandi, siamo piccoli e abbiamo l'ambizione di poterci migliorare. Per arrivare a essere grandi dobbiamo fare ancora tanta strada e siamo solo all'inizio, e non è facile entrare tra le grandi, ci sono tanti aspetti dove dobbiamo migliorare, però peccato, perché magari non ci sono giocatori nostri convocati in nazionale A, ma sono convinto che presto arriveranno. Ma ti sei dato un'idea del perché Berardi non abbia ancora fatto un minuto con la maglia dell'Italia maggiore? Le responsabilità un po' iniziali possono essere anche sue per alcuni atteggiamenti, però è un ragazzo che è cresciuto tantissimo. I giovani vanno accompagnati anche nei propri errori, ma anche nell'essere compresi. Dobbiamo essere bravi noi a entrare nel loro mondo, e Domenico è uno di questi. Io tra virgolette sono avvantaggiato con lui, perché l'ho cresciuto, siamo cresciuti insieme ed ha fatto tutto il percorso con me. Per me è un giocatore di una qualità impressionante e per il mio gioco imprescindibile. Tu che ce l'hai sotto mano tutti i giorni, dov'è che può arrivare? Ricordiamo che ieri sera ha fatto il sesto gol nelle prime 5 partite di questa stagione. Per carità, non si misura tutto col numero di gol, però questo è un ragazzo che ha 22 anni appena compiuti, perché li ha fatti a inizio agosto. Magari l'anno scorso non è stato straordinario dal punto di vista realizzativo, ma veniva da un'annata, quella precedente, invece con numeri altissimi. Qual è la sua prospettiva? Berardi è un 94 che ha fatto già 40 gol in Serie A e più di una sessantina tra tutte le competizioni. Ho detto tutto per far capire che i gol per un attaccante sono importanti, ma allo stesso tempo è anche un grande assist man, un giocatore che subisce tantissimi falli e lavora per la squadra. Sono degli aspetti straordinari per le caratteristiche di un giocatore. Io la vedo in un modo, magari non tutti la vedono allo stesso modo, ma anche un ragazzo che ha fatto determinate scelte nel proseguire il percorso con noi, per quello ritengo che lui abbia delle prospettive importanti. Ma hai dovuto dirgli qualcosa quest'estate? Abbiamo parlato tanto, ma io e lui parliamo, ci confrontiamo, è un carattere particolare, però bisogna, come ho detto prima, bisogna sapere entrare nella testa di questi ragazzi e accompagnarli nella loro crescita, passando anche da degli errori, come li facciamo noi grandi, figuriamoci i giovani. Ma l'hai convinto tu a restare a Sassuolo, o è stato lui a convincerti che era la scelta giusta? No, io non convinco mai nessuno. A me piace che il proprio giocatore arrivi a determinare la propria scelta, consapevole di quello che sta facendo, e lui ha scelto di rimanere con noi, punto. Se lui mi avesse chiesto di andare via, come ha chiesto Sansone, l'avrei accompagnato nella sua scelta. Prima di salutarti ti giro una domanda che ha scritto un amico, Gaetano Da Lucca, ricordando anche che tu sei stato esonerato il primo anno di A e poi richiamato, e ti chiede quale fu il tuo pensiero, la tua impressione in quel momento. Fa parte di un percorso di crescita, passando da una, tra virgolette, una sconfitta, una delusione, mi sono ricaricato in un certo modo, ho messo le cose in chiaro sotto tutti i punti di vista. Per me è stata un'esperienza, tra virgolette, positiva e di crescita, che mi sta facendo diventare maggiormente consapevole di quello che richiedo. Grazie Eusebio. Grazie a voi. E complimenti ancora a Eusebio Di Francesco e al suo Sassuolo, che per la prima volta è entrato nei gironi di Europa League. E ripetiamo, oggi poi, pochi minuti fa, è stato sorteggiato con Athletic Bilbao, Genk e Rapid Vienna, mentre l'Inter se la vedrà con Sparta Praga, Southampton e Apoel Beersheva, la Fiorentina con il PAOK Salonico, lo Slovan Liberec e il Karabag, e la Roma con il Viktoria Pilsen, l'Austria Vienna e i rumeni dell'Astra. Ci fermiamo, ci sono le informazioni della borsa. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Con l'Inter che invece ha fatto scelte diverse e, come stiamo raccontando, aspetta nelle prossime ore già a Milano Gabigol, attaccante brasiliano. Non nascondo che Matuidi rappresenti il profilo più adatto per noi, però è il giocatore del Paris Saint-Germain, quindi con loro abbiamo avuto dei contatti, speriamo di poter arrivare a una definizione nei prossimi giorni. Io sono comunque ottimista. Meno 5 alla fine del calciomercato, tra pochi minuti vi diamo tutti gli ultimi aggiornamenti, perché è il momento dei fuochi d'artificio, eh. C'è grande traffico sui cieli di Milano. C'è chi arriva dal Brasile come Gabriel Barbosa, Gabigol, c'è chi è in arrivo dal Portogallo come João Mario, c'è chi sta partendo per Firenze come Jovetic, poi c'è Brozovic che è stato parcheggiato al duty free, perché insomma pare di capire che l'Inter stia cercando di venderlo, ma al momento l'impresa non è ancora riuscita. 800 24 00 24, facciamo un ragionamento anche su questo. Raffaele da Treviso. Sì, buongiorno. Eccoci. Buongiorno a lei, io volevo parlare della Champions, un po' praticamente quello che è stato detto all'inizio. Per quello che riguarda, io non so chi era quel giornalista. Alessandro Decalò, Gazzetta dello Sport. Okay. Allora, io volevo dire questo, lui ha detto probabilmente, forse non era intesa in questo senso, che l'oligarchia che viene creata praticamente a livello di Champions, le 4, 5, 6 squadre che di fatto si contendono anno per anno praticamente la Champions, non è tanto legata ai giocatori. Beh, onestamente mi pare una un po' detta così, un po' da bar, da osteria, perché andiamo a guardare il Real Madrid, andiamo a guardare il Barcellona, andiamo a guardare il Bayern Monaco, non mi sembra che siano squadrette composte da giocatori no, di totale inesperienza. Per carità, Raffa, ti faccio finire il concetto, voglio solo precisare una cosa, in realtà credo che fosse un ragionamento un po' più ampio e che riguardava il fatto di saperci stare poi dentro quelle competizioni e il saperci stare. Noi partivamo dal concetto che spesso abbiamo sottovalutato l'importanza del primo posto nel girone, dicendo tanto basta passare, e invece le grandi squadre questo errore non lo fanno, e le grandi squadre, il Barcellona ad esempio, il suo girone lo vincono sempre. Era, credo, questo il ragionamento completo, però prego, ecco, Raffaele. Il ragionamento che volevo fare io sostanzialmente era questo, che sicuramente si contano anche i giocatori, conta anche un grande allenatore, perché un grande allenatore è colui che dà poi la forza, la carica, il coraggio alla squadra, e grandi allenatori purtroppo noi in Italia ne abbiamo pochissimi, e poi oltretutto la mentalità che si crea. Quella è la mentalità vincente che c'è nel Barcellona, sin dalla primavera i giocatori nascono con la mentalità vincente, il Barcellona, il Real Madrid, il Bayern Monaco, e un po' meno le altre squadre, il Paris Saint Germain e le altre squadre che sono state costruite con i soldi più che con, diciamo, un lavoro di progetto. Ecco, io volevo dire l'ultima cosa, oltretutto, che probabilmente all'Italia all'Italia praticamente, sì, probabilmente mancano un po' questi concetti di base. Ed è molto bello il progetto che è stato costruito nel Sassuolo, e infatti i risultati si stanno ottenendo grazie proprio ad una mentalità vincente. Sì, ecco, hai ragione Raffaele, e anche tra l'altro partendo, oltre che da un gruppo italiano molto forte, partendo anche da un allenatore italiano molto valido, mentre prima parlavamo con Eusebio Di Francesco, ci sono tifosi di tante squadre della Juventus, ma non solo, che hanno scritto chissà, un giorno Di Francesco potrebbe essere allenatore buono per la nostra panchina. Io non condivido, ad esempio, e sono arrivati un paio di messaggi di chi dice il Sassuolo in Europa League è il simbolo di quanto siamo provinciali in Europa, e non è così. Il Sassuolo, io l'ho detto prima scherzando, è oramai una grande, ma scherzando non troppo, è oramai una grande del nostro calcio. Saluto Sandro Sabatini da Mediaset. Ciao. Premium, ciao Sandro. Io, insomma, ciao. Parlare di Sassuolo soltanto in termini di favola provinciale, io l'ho detto prima a Di Francesco, è quasi offensivo ormai. Ma il Sassuolo è una società ricca, ben organizzata, con una storia precisa negli ultimi 10 anni, e poi guarda, io sono un tifoso, diciamo, del Sassuolo, perché mi piace, perché quando si parla di favola si dà sempre un'accezione di casualità, ecco, e allora io dico che il Sassuolo non è una favola, proprio perché mi sembra che nulla sia casuale. Poi puoi arrivare un anno sesto, un anno ottavo, nono, oppure un anno quarto, puoi entrare in Europa League, oppure prendi il palo ed esci in maniera sfortunata, però il Sassuolo ha dietro una strategia ben precisa, che non è degli ultimi mesi, ma direi degli ultimi anni. E poi, Giovanni, consentimi, sei tanto elogiato il Leicester, no? Dice, sì, il Leicester è il bello del calcio. Anche il Sassuolo è il bello del calcio. Sì, sì, ma assolutamente. E ripeto, a patto, almeno per quanto riguarda il Sassuolo, di smettere di pensare che ci sia qualcosa di miracolistico dietro quello che succede sul campo. Non è il caso del Sassuolo. Ti sei fatto un'idea, Sandro, di che cosa succede all'Inter? Noi abbiamo detto prima, insomma, grande traffico sui cieli, arrivano Gabigol, João Mario, va via Jovetic, vedremo cosa succede a Brozovic. Tanti ci scrivono, com'è possibile che accada tutto questo in un club che formalmente è ancora, diciamo, sotto i vincoli del fair play finanziario, ammesso che abbia ancora un senso parlarne. Giovanni, questa domanda la fanno i telespettatori in TV, su Premium, alla radio adesso, per strada, e io rispondo a tutti allo stesso modo. Io non faccio il giornalista e non il commercialista. Se si può, se l'Inter lo fa, significa che lo può fare. Se sia conveniente per l'Inter farlo, per esempio acquistare João Mario con una valutazione di 45 milioni e vendere Brozovic, supponiamo, per 25-30, io dico no. Perché secondo me Brozovic è un giocatore che, se ben motivato e ben collocato tatticamente, vale qua praticamente João Mario, secondo me. Però io non so fare il commercialista su financial fair play. Il fair play finanziario mi sembra che in qualche modo, per le conoscenze che abbiamo noi, gente comune, in qualche modo tutti trovino il modo per, non dico aggirarlo, perché non voglio usare verbi sbagliati, ma per aggiustarlo. Sì, anche aggiustarlo è un verbo, insomma, che abbastanza però... così, per limitarlo, diciamo così, per evitare gli effetti. C'è anche da capire, insomma, se ad esempio João Mario è quello che serve all'Inter, all'intervista Verona ad esempio, in cui mancava evidentemente un regista. Ma sì, João Mario forse può anche giocare un pochino più accentrato, oppure può essere Banega il regista. Io, guarda, per come l'ho visto giocare all'Europeo, è sicuramente un ottimo giocatore, però non credo che rappresenti un salto di qualità rispetto a Brozovic. Detto questo, siccome al di là dell'operazione, che è evidentemente pilotata da Kjaer Jorabchan, che è un procuratore con grandi conoscenze, un tessuto anche di conoscenze molto, molto ampio, e quindi non è un'operazione, immagino, proprio pilotata dalla dirigenza dell'Inter, almeno per come la intendiamo noi, in Zanetti e Ausilio. Fatta questa premessa, io mi fido anche di chi comunque l'ha osservato e ha dato il benestare, perché di sicuro hanno più informazioni, più video, più referenze e più nozioni, insomma, più rispetto al sottoscritto. Sì, certamente. Altro club che si sta muovendo tantissimo in queste ore, e che è il Napoli. Io non so che idea ti sei fatto tu dell'assoluta ricerca di un attaccante e dell'assoluta volontà di mandar via Gabbiadini. ma che Gabbiadini è una seconda punta e Milik tutto sommato è una prima punta nell'Ajax, ma era una seconda punta nella nazionale polacca. Per sostituire Higuaín il Napoli ha bisogno di una prima punta, proprio l'identikit è quello della prima punta, e quindi quello che dico io è che Gabbiadini sembrava continuare con Gabbiadini a Napoli senza la fiducia dell'allenatore, della società e del pubblico, oppure con una fiducia molto flebile, diciamo così, sembrava quasi un accanimento terapeutico per la carriera di Gabbiadini. Credo che si vada verso la soluzione migliore. Unica cosa, secondo me, che ha sbagliato, se è vero quello che mi hanno raccontato Sarri, è ad aver bocciato Bacca, perché per sostituire Higuaín, secondo me, Bacca aveva le caratteristiche migliori. Perché è vero che corre meno il colombiano in difesa, nella fase difensiva rispetto a Kalinic, cioè si impegna anche meno, ma come finalizzatore sicuramente Bacca avrebbe avuto qualcosina in più di Kalinic, che resta comunque un eccellente attaccante. Sì, eccellente attaccante. Va anche ricordato che Kalinic, quando la Fiorentina si è spenta nella seconda metà della stagione, è di fatto sparito. Credo abbia fatto due gol fra Coppa e Campionato da gennaio a giugno. Prima di chiudere ti rubo ancora un minuto e ti chiedo invece se hai capito qualcosa del Milan. Io ho capito che Romagnoli non va via, ma credo sarebbe stato altamente impopolare cederlo, a prescindere dalle cifre, a una settimana dalla fine del mercato. C'è chi ritiene Pasalic uno scarto e non un rinforzo. Ma guarda, Pasalic me lo sono studiato, ecco, e se Pasalic non ha più il mal di schiena e quindi è recuperato fisicamente, può diventare un giocatore di discreto talento, di buon talento, un giovane che può ancora tornare a sbocciare. Se invece è ancora accompagnato a problemi fisici, è destinato a sfiorire. È un gran dilemma, come peraltro era un dilemma quello che hai appena accennato tu sulla Fiorentina e Kalinic, perché è vero, appena si è spenta la Fiorentina si è spento Kalinic, è vero quanto appena si è spento Kalinic l'anno scorso si è spenta anche tutta la Fiorentina, cioè sì, si fa fatica capire a mettere in fila causa effetto. Bravo. Assolutamente. Esatto. Grazie Sandro, alla prossima. Ciao Giovanni, grazie a te. Grazie a Sandro Sabatini da Mediaset Premium, 800240024. Poi diamo due risposte, una sul fair play finanziario dell'Inter e l'altra sugli obiettivi della Roma per l'Europa League. Adesso però c'è il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Ha scritto un amico, 349-238-6666, Mauro, che la differenza tra Joao Mario e Brozovic è la continuità. E Brozovic è troppo discontinuo, per carità, è vero, a parte che Brozovic, così come Joao Mario, era un ragazzo abbastanza giovane. Il discorso è se questa differenza di continuità valga una differenza di 20-25 milioni di prezzo di investimento. Questo però lo potrà dire soltanto il campo. C'è qui Marta Cagnola per una finestra informativa sulle vicende del terremoto. Marta. Sì Giovanni, due brevissimi aggiornamenti. Intanto ha parlato il comandante regionale delle Marche, dei Vigili del Fuoco, che ha detto che ai Vigili del Fuoco ora non risulta più alcun disperso nelle Marche. Le ricerche in tutto territorio colpito dal sisma ovviamente vanno comunque avanti. E mercoledì ad Amatrice ci sarà una celebrazione religiosa senza salme, un funerale senza tutte le vittime, proprio perché allo stato, ha spiegato il vescovo di Rieti, Monsignor Domenico Pompili, non è possibile ipotizzare un momento in cui avremo tutte le salme a disposizione, perché ovviamente alcune sono già state portate via dai familiari. Prossimi aggiornamenti nel GR24 delle 15. Grazie Marta. Giorgio da Piacenza. Giorgio. Sì, dunque io volevo parlare di Inter e voglio esprimere tutta la mia incazzatura, perché ieri sera ho visto giocare Duncan e nello stesso ruolo in cui gioca Duncan da noi gioca lo stopper del Cile, cioè noi facciamo giocare Ranocchia, lo stopper titolare che ha vinto la Coppa America non gioca da stopper, gioca da mediano a cagare. Beh, e Duncan l'abbiamo dato via. Insomma, è possibile, spiegatemi voi questa cosa, perché i giocatori come Duncan non trovano posto nell'Inter, perché Medel deve fare il mediano e non lo stopper con il quale ha marcato i più forti e ha vinto la Coppa America? Sì, potete spiegarmelo? Ma guarda, intanto perché il ruolo originario di Medel non è quello dello stopper, poi è vero che ha vinto due volte la Coppa America giocando in quel ruolo e probabilmente in una difesa a 4 in questo momento potrebbe essere la prima opzione per qualunque allenatore dell'Inter dopo Miranda e Murillo, ma evidentemente anche Mancini l'aveva schierato poco lì, e quindi ci saranno altre considerazioni, però non è che il rendimento di Medel a centrocampo sia così scadente, Giorgio, per carità. Su Duncan io penso questo, che l'Inter abbia fatto in questi anni un grande lavoro sul settore giovanile, non ha portato praticamente nessuno alla prima squadra, però è anche vero che ha incassato tanto, e quindi comunque esiste un progetto, esiste una progettualità che ha dato anche dei risultati in termini economici, e credo che anche questo sia un valore da non buttare via. Domani si gioca, domani si gioca, e domani sera c'è una partita che può già dare qualche risposta, quella tra Napoli e Milan. Vi faccio sentire Montella qualche minuto fa in conferenza stampa. Mi piace essere molto schietto anche con i ragazzi e per quanto possibile anche con voi. Io credo che Milan l'anno scorso abbia fatto delle grandissime prestazioni e le partite successive abbiano avuto dei cali di tensione. Ecco, noi voglio lavorare su questo, voglio insistere su questo, mettere in un cassetto la prestazione col Torino e pensare a quella di domani, esclusivamente a quella. Quindi anche troppi complimenti abbiamo ricevuto per quanto dobbiamo ancora fare. E poi ancora Montella sul fatto che il Napoli domani non avrà Kalinic perché non ci sono i tempi tecnici per chiudere la trattativa, e non avrà evidentemente Higuain. È la prima volta che il Napoli torna al San Paolo senza Higuain. Higuain, se sta bene, quando sta bene, è un calciatore che qualche ora di sonno te la fa perdere, insomma. È anche vero che talvolta quando c'hai questi calciatori la squadra si appoggia su questi, quando non c'è Alai possono mancarti, ma non conosco le dinamiche del Napoli e tanto meno dei calciatori del Napoli, quindi se in linea generica preferisco che Higuain non ci sia piuttosto che ci sia. Francesco da Perugia ha scritto un SMS per chiedere perché la Juventus non ha convocato Zaza per l'altra partita di domani, ore 18, che è la trasferta della Juventus all'Olimpico contro la Lazio, partita insidiosa, al di là del valore della Lazio, anche perché, lo ha ricordato oggi Allegri, si gioca alle 18, farà caldo, lo ha già sperimentato la Roma sabato scorso, sempre alle 18 contro l'Udinese, e non è facile giocare a ritmi alti, però sul tema di Zaza e non solo, ecco Allegri in conferenza una mezz'oretta fa. Partirei innanzitutto dai non convocati, che sono Zaza, che è a Londra e ha la possibilità di approdare al West Ham, Marrone, che è un altro giocatore in uscita, e Bonucci per problemi personali. Per quanto riguarda il sorteggio, l'unico sorteggio che al momento mi interessa è quello che è stato fatto a luglio e che ci ha detto che domani alla seconda giornata giocheremo contro la Lazio. Parliamo un po' di Formula 1, dai. Alberto Sabattini, direttore di Autosprint. Ciao Alberto. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, siamo all'inizio del fine settimana di Spa, in Belgio, 13ª prova del Mondiale di Formula 1, 13ª su 21, la gara è domenica alle 14 e avremo modo di commentarla poi nel corso del nostro tradizionale appuntamento di tutti i convocati weekend, domenica dalle 17 alle 19, quindi orario tradizionale. Oggi i primi riscontri delle prove libere, sappiamo però già, Alberto, io credo che questa sia una buona notizia per tutti gli appassionati di Formula 1, che vivremo un weekend particolare con Hamilton che sa già che partirà dall'ultima fila, quindi ci sarà insomma comunque la tensione di questo tentativo di rimonta, succede per questioni regolamentari insomma, ed è credo questa una buona notizia per chi si aspetta dai Gran Premi emozioni che non sempre ci sono. Sì, Hamilton partirà dall'ultima fila perché ha sostituito il motore, anzi due motori. Lui nella prima parte della stagione ha avuto più guai meccanici di Rosberg, quindi aveva praticamente esaurito i cinque motori regolamentari. La Mercedes ha dovuto cambiare motore con una trovata. Hanno deciso di omologare due nuovi motori per questa gara per Hamilton, in modo che ha totalizzato il doppio delle penalità, quindi in teoria lui dovrebbe partire in 50ª posizione, in realtà partirà ultimo. È stato un trucco per non dover scontare un'altra penalità. È apprezzabile la lucidità anche nel ragionare su momenti di difficoltà, sì, come questo. Io penso la Mercedes l'ha fatto perché questa è una pista che salta la Mercedes, dove Hamilton non avrà difficoltà a rimontare dall'ultima posizione in gara. Forse l'ha fatto anche perché proprio qui a Spa due anni fa ci fu la prima collisione tra i due, tra Rosberg e Hamilton, che diede il via alle incomprensioni tra i due piloti, quindi Tu dici meglio tenerli lontani. Calda, meglio tenerli lontani, uno in prima e uno in ultima fila. Vediamo per scontato che Rosberg farà la pole position. Beh, Rosberg che ha in mano un jolly praticamente unico per riaprire il mondiale. L'abbiamo detto prima, questo è il 13° Gran Premio su 21. Però è inutile girarci intorno, è un mondiale che lentamente, ma neanche tanto lentamente, sta scivolando dalle parti di Hamilton. Ci sono state le quattro vittorie iniziali di Rosberg, c'è stata la sensazione che Rosberg fosse dominante, poi prima delle ferie è cambiato tutto. Sì, è vero, però è anche vero che questo è successo anche l'anno scorso, poi Rosberg ha azzeccato tutta una serie di risultati positivi nell'ultima parte della stagione che l'hanno tenuto in corsa fino alla fine. Quindi le piste della seconda parte del mondiale in genere sono a volte favorevoli anche a Rosberg, quindi è un po' presto per dare il mondiale assegnato a Hamilton, anche perché, ripetiamo, lui ha 19 punti di vantaggio in classifica, ne ha rimontati un'unità perché 4 gare fa era indietro i 43 punti, però hanno tutte e due delle macchine vincenti, quindi La lotta è ancora aperta, considerando che Rosberg qui, se tutto va bene, almeno 10 punti li recupera su Hamilton. Sì, e quindi tornerebbe in scia. Possiamo legittimamente aspettarci qualche segnale di vitalità dalle Ferrari? Ah, questa è una gara importante perché la Ferrari si presenta dopo la seconda rivoluzione di Marchionne. Nella pausa di agosto Marchionne ha praticamente mandato via il direttore tecnico, l'inglese James Ellison, e ha dato i poteri del coordinamento tecnico a un italiano, Mattia Binotto, che era il capo dei motoristi, e quindi vogliono soprattutto dare spazio, ha cambiato anche lo staff aerodinamico, vogliono dare spazio agli italiani più giovani emergenti tra i fila tecnici di Maranello. Quindi questa è la prima gara in cui debutta il nuovo staff tecnico, non aspettiamoci tanto perché la macchina è sempre quella, però ci saranno idee fresche per metterla a punto. Poi questa è una pista dove Raikkonen va sempre forte, ha vinto 4 volte qui. Vettel comunque sarà pungolato dalla prestazione di Raikkonen. La Ferrari ha scelto gomme più morbide della Mercedes per questa corsa e quindi un pochino di margine lo recupererà grazie ai pneumatici più soffici. Non hai però l'impressione che questa ricerca assoluta del risultato anche singolo in questa seconda parte della stagione, quella vittoria che servirebbe insomma per dare un senso al bilancio, sia anche un po' un simbolo, una testimonianza di un po' di confusione strategica? Cioè, forse sarebbe davvero il caso di concentrarsi sul 2017, che tra l'altro sarà un'annata particolare con il cambio delle regole. Sì, ma tutti si concentreranno anche sul 2017, perché essendoci un cambio regolamentare molto importante, ogni squadra dovrà distogliere parte delle menti degli ingegneri pensanti a progettare la nuova macchina, e quindi questo problema ce l'ha anche la Ferrari. La Ferrari però un po' diciamo una vittoria simbolica per salvare in parte la faccia e la stagione deve farla, Marchionne l'ha chiesta e l'ha pretesa. Però io sto guardando i tempi delle prove libere e ci sono le Red Bull davanti a tutti. E il che per la Ferrari è certamente una pessima notizia. Esatto. Ferrari che lo ricordiamo, Vettel un anno fa arrivò in Belgio ancora in corsa virtualmente per il mondiale. Oggi sembra davvero passato un secolo dall'anno scorso, che doveva rappresentare l'inizio della rinascita della Ferrari, l'inizio del piano di Marchionne, di arriva bene, insomma aveva tanti significati. Grazie direttore. Prego, prego. Comunque la Ferrari aspettiamocela a Monza, perché il motore più potente lo porterà alla prossima gara di Monza. Speriamo. Grazie ad Alberto Sabatini. Prego, arrivederci. Grazie ad Alberto Sabatini. Siamo quasi in chiusura. Io voglio rispondere a un paio di messaggi che sono arrivati. Il primo sul fair play dell'Inter. I conti si fanno al 30 giugno, ricorda un amico. È vero, però, ad esempio, i primi conti, quelli sui giocatori poi che si possono inserire nelle rosa per l'Europa League, ristretta a 22 uomini, si faranno il 31 agosto, non il 30 giugno. E sono conti in cui l'Inter ha dei vincoli importanti. E la seconda, ha scritto un amico, io condivido, parlando di Franco Vázquez, che è passato al Siviglia, ex giocatore del Palermo, che ha giocato un amichevole con l'Italia e ora è stato chiamato dalla nazionale argentina e si è detto disponibile a traslocare nella nazionale argentina. Anche a me non sembra un grandissimo esempio di serietà, ma aggiungo, mi sembra anche che insomma queste regole chi ha scelto di giocare con la nazionale, io credo dovrebbe essere legato a quella nazionale per sempre. Tema che era già stato sollevato quando Diego Costa ha giocato prima un amichevole col Brasile e poi è passato alla Spagna. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Tutti i convocati torna domenica dalle 17 alle 19.